Investire informati. Allora, ci sediamo sui banchi di scuola. Io sono prontissima, perché so che c'è un insegnante che mi spiega sì, bene. Sì, ha già in mano il gessetto, si è alzato in piedi sulla lavagna. Allora, prima però di presentarlo, facciamo un po' di premesse rispetto ai temi che affronteremo oggi. Perché qua, guardando l'Italia, a parte il terremoto di oggi purtroppo, ci sembra che tutto il mondo ruoti attorno alle vicende di Siena e di Monte dei Paschi. Allargando però per bene gli orizzonti, ci rendiamo conto come gli spunti di finanza siano invece tantissimi e siano tutti meritevoli assolutamente di attenzione costante ed approfondimento, perché potrebbero mettere un po' di pressione ai mercati finanziari. Intanto va ricordato che ci avviciniamo sempre di più a due appuntamenti politici che sono molto importanti, che sono certamente distanti geograficamente, ma promettono di essere invece un test rilevante per il mondo degli investimenti. Da una parte abbiamo il nostro referendum sulla riforma costituzionale e poi abbiamo le presidenziali americane. Sembra abbastanza probabile che le prossime settimane vedranno gli operatori molto concentrati su questi argomenti. Poi non possiamo mettere da parte il tema sempreverde delle azioni delle banche centrali, perché è il tema di fondo centrale a sua volta, è quello che spinge al ribasso i tassi di interesse, al rialzo le borse. Ma quanto potrà durare tutto questo? Oggi vi segnalo un'analisi molto attenta del Sole 24 Ore sul mercato obbligazionario mondiale, che è davvero sotto pressione proprio per le prospettive di nuovi interventi da parte delle banche centrali, appunto nuovi interventi di politica monetaria. Possiamo allora, alla luce di tutto ciò, azzardare qualche previsione sull'andamento dei mercati finanziari da qui a Natale, e poi vi racconteremo altro anche in tutto questo che cosa sta accadendo a Roma, perché è in corso la celebrazione per la 92esima giornata mondiale del risparmio, quindi un evento che si svolge nel nostro paese da ben 9 decenni, per cui ci sono cose interessanti che vengono pronunciate. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella proprio poco fa ha detto che lo sforzo di istituzioni ed operatori deve essere diretto a tradurre l'attuale disponibilità di risparmio, che è un po' in crescita per gli italiani, ma anche i tassi particolarmente bassi che l'accompagnano, in investimenti per rilanciare lo sviluppo del paese. Insomma, tanta materia oggi per la nostra scuola di risparmio. Investire informati. Ben ritrovato Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati. E naturalmente, anche se volete, aspettiamo gli interventi come sempre degli ascoltatori all'800240024. Senta, noi abbiamo fatto tutto questo ragionamento sul tema dell'inquinamento atmosferico, facevamo anche delle considerazioni sulle la qualità del nostro territorio, la necessità di mettere in sicurezza le nostre abitazioni, insomma, ma sono temi interessanti questi per il mondo dei grandi investitori, che è quello a cui lei appartiene, Alfieri. Ci pensate? Questo è un po' tutto il tema dell'investimento socialmente responsabile, se vogliamo. Sì, beh, rientrano in quella che viene definita da tempo la finanza cosiddetta etica. Sono dei temi che hanno trovato, direi, negli ultimi 10 anni, 15 anni, molto più interesse e molto più sensibilità da parte sia dell'investitore istituzionale che anche degli investitori finali. In Europa abbiamo circa 1 migliaio di fondi etici che investono a vario titolo. Bisogna solo ricordare appunto che ogni fondo ha le sue caratteristiche, investe ovviamente con specifiche finalità, ma la cosa molto importante è che dietro il fondo c'è generalmente un comitato etico che sovraintende, controlla che effettivamente gli investimenti vengono fatti dove ci si è prefissati di farlo, e soprattutto in quelle società che rispettino determinati crismi. Quindi direi che anche la finanza ha trovato un angolo molto interessante. Devo riscontrare che proprio negli ultimissimi anni gli investitori istituzionali guardano agli indici etici con molta più attenzione rispetto al passato. Allora, andiamo invece ai temi proprio di questa giornata. Si sta celebrando a Roma la Giornata Mondiale del Risparmio. Come ogni anno, per l'occasione viene presentata, dottor Alfieri, l'indagine realizzata da Ipsos per ACRI, l'Associazione delle Casse di Risparmio Italiane, che è appunto l'ente che organizza questo evento. E questa indagine analizza non solo la propensione al risparmio degli italiani, ma anche la predisposizione ai consumi, le aspettative sullo scenario economico interno ed internazionale. Allora, cosa si è appreso questa mattina? Do qualche cifra ai nostri ascoltatori. È salita al 40% la quota di italiani che riescono a risparmiare. Siamo ai massimi dal 2003. E questo ci sta rispetto a questa crisi che ancora non accenna a placarsi. placarsi e quindi un po' per manifestare tutta la massima prudenza. Naturalmente gli italiani consumano meno, ma provano appunto a risparmiare di più. E poi c'è questa fuga che questa indagine definisce, dottor Alfieri, questo è il suo campo, strutturale dal rischio. È un atteggiamento appunto molto evidente nelle scelte di investimento. Il basso rischio è diventato l'elemento più rilevante nelle scelte dei risparmiatori italiani. Come dobbiamo interpretare questa considerazione di questa indagine? Ma sicuramente corrisponde alla realtà dei fatti. I mercati finanziari, sappiamo benissimo, negli ultimi anni hanno riscontrato una forte volatilità, hanno portato ovviamente anche a perdite importanti, rilevanti anche su tipologie di investimenti che erano considerati molto diciamo molto salubri o comunque al riparo da qualsiasi rischio. Vi ricordo appunto i titoli di Stato, ma non solo, anche i titoli bancari. L'attitudine quindi evidentemente degli investitori è quello di, in un contesto ovviamente più difficile, più pericoloso, di risparmiare di più, e quello che investo lo investo in modo molto più controllato, guardo con molto più attenzione cosa sto andando a comprare. Un tempo questo non avveniva, io devo dire che riscontro evidentemente questo un elemento di positività, cioè l'investitore è più consapevole, ci stiamo avvicinando cioè verso gli investitori più evoluti, per così dire quelli del mondo anglosassone, dove il concetto di rischio diversificazione è molto molto pronunciato. L'italiano generalmente fino a poco tempo fa investiva sempre in pochissimi tipologie di asset class. Anche se in realtà le devo dire che analizzando ancora più a fondo l'inchiesta appunto di Ipsos, leggo anche che c'è questa propensione dell'italiano, quantomeno un maggior interesse rispetto alle ultime rilevazioni, a contribuire con il proprio risparmio ad investire in attività che aiutino lo sviluppo dell'Italia. Un italiano su 5 è in cerca di, senti questo termine Nicoletta, deglobalizzare il proprio portafoglio di investimenti correlando il proprio guadagno con gli investimenti nel sistema paese. Siamo sicuri che sia proprio una buona notizia, Alfieri, questa? Beh, diciamo che anche una delle critiche che viene fatto al sistema Italia, anche al sistema del risparmio, di quello di non partecipare adeguatamente alla crescita del paese, con scarse risorse provenienti dal risparmio che vengono avviate verso investimenti nazionali. Da una parte dobbiamo partecipare di più alla crescita del paese, dall'altra parte dobbiamo diversificare sui mercati internazionali per proteggere il portafoglio. Come si fa? C'è un giusto mix di tutto, esatto. Però devo dire che effettivamente anche in questo purtroppo paesi più evoluti come gli Stati Uniti o l'Inghilterra comunque hanno una propensione ad investire anche su aziende cosiddette nazionali di gran lunga superiore al nostro. Allora, sono dei temi veramente interessanti. Noi adesso andiamo in pausa. Nicoletta, io ho la borsa a raccontare la giornata di oggi. Già qualche ascoltatore si lamenta che non l'abbiamo raccontata, quindi pronti subito. Anche con il terremoto la borsa c'è. Esattamente. E poi andremo all'analisi di quello che sta accadendo sul mercato obbligazionario, perché c'è tutta questa pressione sui titoli di Stato mondiali. Andremo anche un po' a quelli che sono, secondo la visione di JP Morgan, i temi che si stanno ponendo come particolarmente forti in questo ultimo scorcio del 2016. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Vi aspettiamo tra pochissimo. Allora, vi chiederete perché abbiamo scomodato Michael Jackson con Thriller per investire in formati. Questo è un bel domandone. Non è il domandone di oggi, però è una bella curiosità che abbiamo trovato nei giorni scorsi dalle pagine del Sole 24 Ore, perché nella ricerca di queste curiosità legate all'andamento dei mercati finanziari da qualche tempo è particolarmente impegnato un collega che si chiama Enrico Marro. Ce l'abbiamo già in onda. Enrico, buongiorno. Buongiorno, a tutti. Eccolo. Allora, Michael Jackson, per introdurre il tema della relazione che c'è fra borsa ed Halloween. C'è una curiosa analisi, appunto, che Enrico ha riportato sulle pagine del Sole qualche giorno fa. Dobbiamo considerare, l'anticipo, poi Enrico ce la spiega meglio, che cosa è successo negli ultimi 120 anni di storia finanziaria. Enrico, allora spiegaci tu, prendendo in esame il periodo che intercorre fra i minimi di borsa che si raggiungono in ottobre e la notte di San Silvestro del 31 dicembre, scopriamo per esempio che l'indice americano Dow Jones che cosa fa? Guadagna in media il 6,8%, cioè in pratica le streghe e i vampiri di Halloween e Michael Jackson Jackson rappresentano dal punto di vista statistico, poi noi sappiamo bene che la storia non sempre si ripete, però dal punto di vista statistico e storico rappresentano il confine tra un mercato stagionalmente orso, cioè a ribasso, e un mercato che dai minimi di ottobre, raggiunti ottobre, più o meno dalla svolta di Halloween, diventa, sempre prendendo la statistica con le molle, toro. Infatti questa ricerca, che considera 120 anni di storia di Dow Jones, dimostra che dai minimi raggiunti a ottobre, alla notte di San Silvestro, si guadagna il 6,8%. Ma c'è stato anche un studio monumentale che hanno fatto due ricercatori americani, Ben Jacobsen e Cherry E, che hanno raccolto addirittura i dati della Borsa di Londra dal lontanissimo 1694 e li hanno messi assieme a quelli di 100 altre diverse borse. E il risultato è che in media, nei sei mesi di tutte queste borse, di tutto questo tempo, nei sei mesi tra maggio e ottobre, la performance è negativa, mentre da novembre ad aprile, appunto l'Halloween indicator, come si dice, le performance medie sono superiori del 4,% rispetto a quelle estive. E quindi diciamo l'Halloween indicator, cioè il fatto di entrare stagionalmente più o meno sui mercati alla fine di ottobre, la svolta appunto della festa di streghe e vampiri, è speculare al famoso sell in May and go away. Di maggio invece, quindi vendi di maggio quando invece bisogna goditi vendere l'estate, esatto. Esatto, e questo prosegue, poi voi fermatemi, abbattetemi. No, dici l'ultimo di proverbio di borsa, che è quello anche relativo al fatto che ad ottobre è un mese che ammazza l'orso, il bear killer. Sì, perché sempre stando ai dati raccolti in questo caso da Ned Davis Research, dal 1900, anno 1900 in poi, consideriamo 35 mercati orso, almeno 8 di questi sono terminati proprio in ottobre. Anche questo, poi di fatto diciamo tutto convoglia lentamente quello che è il famoso rally di fine anno, che era, o che è, dipende, perché poi voi sapete che adesso con gli interventi delle banche centrali i mercati sono molto cambiati, però il rally di fine anno tradizionalmente è abbastanza consolidato, insomma, generalmente. Adesso vedremo se quest'anno si verificherà, perché Enrico? Vedremo. Volevi completare? Perché è legato naturalmente al riposizionamento dei portafogli. Certo. Dei Enrico, allora intanto ti ringraziamo delle tue curiosità, perché noi stiamo facendo una raccolta con Nicoletta e quindi la dobbiamo arricchire anche dal punto di vista dei denari. Sì. Ci siamo messe a sguinzagliare, sì, i nostri ascoltatori a caccia di proverbi alla quale denari. In realtà io e Deborah facciamo davvero pochino, facciamo lavorare i nostri ascoltatori, esatto, e anche i nostri amici. Enrico quindi ha dato una mano. Ah sì, guarda, oggi abbiamo veramente arricchito la pagina di denari, perché è quella un po' più ridotta rispetto invece ai proverbi di cuore, che sono molto più diffusi. Enrico, grazie, quando hai queste curiosità riportacele, perché noi le raccontiamo molto volentieri ai nostri ascoltatori. A presto. Grazie a voi, buona continuazione. Ciao. Ciao Lorenzo Alfieri. Allora, è vero che in borsa non dobbiamo fare troppo affidamento su quello che è successo in passato, perché non è mai garanzia di quello che succederà appunto nel futuro, però questi studi sono certamente comunque suggestivi, e qualcuno, forse anche fra voi investitori professionali, un po' di attenzione la fa. Che ne pensa di quello che abbiamo raccontato fino ad ora? Ma la stagionalità, insomma. La stagionalità può avere una sua veridicità, ma quello che ci tengo sempre a ricordare è che noi investitori finali dobbiamo guardare ad altre prerogative, cioè ad esempio fissarci un obiettivo di investimento, magari perché abbiamo un progetto di medio-lungo termine, ovviamente fare gli investimenti in base alla sensibilità al rischio che abbiamo, soprattutto guardare agli investimenti nel medio-lungo termine, quindi lasciamo per così dire agli esperti guardare a effetti stagionali. L'investitore finale deve sempre ragionare ragionare, secondo me, su queste tre prerogative, andando oltre, diciamo, le fasi cicliche, altrimenti ovviamente siamo sempre alla rincorsa, certo, diciamo, di elementi di stagionalità, che possono essere in questo caso ovviamente eventi molto particolari come Halloween o quant'altro, in altre situazioni magari fattori del momento come crisi di un settore, di un paese, per cui si scappa immediatamente. Direi di sgombrare e andare al di là, se no ovviamente corriamo troppo dietro gli elementi quotidiani. Allora, in tutto questo però delle cose interessanti Enrico Marro sul tema del potenziale rally di fine anno ne ha dette. Prima di commentare con lei questo e soprattutto su quello che ci aspetta da qui a dicembre, direi che possiamo anche movimentare un po' i nostri ascoltatori con il domandone odierno. Oggi vi faccio lavorare, qua non ci accontentiamo di una sigla, di un acronimo, ma vi faccio studiare un po' più a fondo, perché avete sentito che vi abbiamo raccontato all'inizio della trasmissione che oggi si sta celebrando a Roma la giornata mondiale del risparmio, è la numero 92, allora già un'indicazione, l'aiutino ve l'ho dato, ma se volete argomentarci un po' meglio come e quando è nata la giornata mondiale del risparmio tantissimi anni fa, andate a caccia di notizie e naturalmente siamo pronti per voi con il nostro libro o di cuore o di denaro. O entrambi, naturalmente, perché siamo sempre super buoni io e Nicoletta. Accettiamo possibilmente solo risposte all'800 24 00 24. Allora, Alfieri, i temi di maggior impatto del momento, quali quelli che si stanno ponendo come particolarmente forti in questo ultimo scorcio del 2016, almeno secondo il vostro punto di vista, e magari se ci riusciamo distinguiamo i due punti di osservazione differenti sul mercato azionario e sul mercato obbligazionario, rischi ed opportunità del trimestre. Guardi che bella interrogazione che le faccio. Ma diciamo la fase attuale, come è stato evidenziato in più momenti, è particolarmente complessa perché abbiamo all'orizzonte una serie di scadenze di carattere politico che ovviamente pongono degli interrogativi agli investitori. Direi che in questo momento forse l'aspetto cosiddetto macroeconomico ha una rilevanza marginale, nel senso che comunque l'economia americana continua a viaggiare a un tasso di crescita abbastanza interessante, non certo robustissimo, entusiasmante, ma comunque adeguato. Tutto sommato i dati che vengono dall'Europa continuano a essere moderatamente positivi, la Cina continua a viaggiare intorno a una crescita del 6,5, quindi il quadro macroeconomico di riferimento è abbastanza stabile. Il problema è che abbiamo all'orizzonte le elezioni americane, il referendum italiano, abbiamo una serie di scadenze elettorali molto importanti all'inizio, tutto il prossimo anno, e quindi gli investitori... La Spagna ha un governo, a quanto pare, questa forse è una delle poche buone notizie degli ultimi poche certezze giorni, e quindi ovviamente gli investitori si pongono delle perplessità e preoccupazioni. Da qui nasce una volatilità che ha colpito fino a poco tempo fa i mercati azionari, che adesso sta colpendo maggiormente i mercati obbligazionari, che ovviamente sono solo sotto l'attenzione forte degli investitori. Perché? Perché non ci dimentichiamo che i mercati obbligazionari hanno corso tantissimo, abbiamo dei rendimenti schiacciati intorno allo zero o addirittura sotto zero, e quindi basta un minimo movimento del prezzo per creare ovviamente, ahimè, grosse perdite, e da cui nasce ovviamente una sensibilità, una volatilità molto alta, accentuata sui mercati obbligazionari, che in altri periodi, in altri tempi non veniva ad essere registrata. Ed è quello che sta succedendo in questi giorni. Adesso ci spiegherà ancora un po' più nel dettaglio Alfieri, dopo aver sentito cosa succede sulle strade italiane, perché in genere sono proprio le obbligazioni ad essere più esposte alla variabile politica. Insomma, proviamo a spiegare questo punto ai nostri ascoltatori tra pochissimo. Vi state sbizzarrendo naturalmente e con i proverbi di denari. Lo vuoi leggere, Nicoletta? Allora, o ti serve il traduttore simultaneo? No, perché è piemontese, non lo so pronunciare già bene, però ce l'ha mandato Piero. Pioi fa pioi, sol fa sold. Pidocchi fan pidocchi, soldi fanno soldi. Invece con il... esatto, continuate a mandarcene. Vi ripropongo il domandone: come quando è nata la giornata mondiale del risparmio? Si celebra oggi a Roma, ha tantissimi anni, ma a prescindere dall'anniversario numerico, magari ecco, impegnatevi a raccontare raccontarci qualcosa di più sul significato appunto di questo importante appuntamento. Allora, parlavamo poco fa con Lorenzo Alfieri, JP Morgan, della pressione a cui è sottoposto in questo momento il mercato dei titoli di Stato. Per tantissimi fattori, più di tutte incide la variabile politica e le preoccupazioni sull'esito dei prossimi appuntamenti, no? Alfieri, lo abbiamo detto, ma perché in genere c'è proprio questo rapporto così stretto fra appunto fermento delle obbligazioni? Perché sono le obbligazioni governative ad essere esposte alla variabile politica e non per esempio le società quotate in borsa che operano su un determinato mercato sono più disinteressate alle questioni politiche domestiche? Ma diciamo che il fattore politico ovviamente è un fattore che può in qualsiasi momento cambiare i termini della questione. Pensiamo ad esempio a politiche fiscali molto aggressive, importanti, che possono ovviamente fare in breve tempo a decollare l'inflazione, quindi avere un effetto immediato sui tassi. I titoli di Stato sono solitamente i titoli più liquidi e quindi sono quelli che immediatamente risentono delle variazioni di variabili come l'inflazione o altri elementi, per cui c'è una forte connotazione. Le obbligazioni societarie possono risentire, ma ovviamente gioco forza hanno un livello di liquidità inferiore, vuol dire che sono meno presenti nei portafogli dei grandi investitori istituzionali e quindi magari si adeguano in un arco di tempo più lungo. Le obbligazioni invece governative sono il punto di riferimento immediato, certo, per scaricare eventualmente delle previsioni, dei cambiamenti di previsionali derivanti da altri fattori, generalmente quelli politici. Senta, c'è un altro tema che mi ha incuriosito un po' in questi giorni ed è sempre legato al movimento che abbiamo registrato sul mercato dei titoli obbligazionari. A guidare questo rialzo appunto dei tassi che si è registrato appunto proprio nelle ultime giornate c'è certamente il timore per la Banca Centrale Europea e per gli effetti anche della stretta monetaria che potrebbe essere portata avanti nel mese di dicembre. C'è poi anche questa preoccupazione legata ad un ritorno di inflazione in Europa. Allora, fino adesso abbiamo provato a spiegare ai nostri ascoltatori che tutte le iniziative messe in campo da Mario Draghi hanno avuto l'obiettivo quantomeno di tornare a far crescere i prezzi al consumo, il movimento appunto inflattivo, perché siamo in una condizione appunto di inflazione a zero se non in deflazione. Adesso un piccolo movimento al rialzo comincia a diventare elemento di preoccupazione, ma insomma, cioè, diciamo una cosa e poi dobbiamo contraddirci il giorno dopo con i nostri ascoltatori. Come facciamo a spiegare che adesso questo piccolo aumento è diventato un problema per tutti? Ma molto corretta l'osservazione, bisogna vedere da dove si parte. È il punto di partenza il problema attuale dei mercati obbligazionari. Stiamo avendo molti mercati obbligazionari, molti titoli obbligazionari con rendimenti addirittura negativi. Quindi addirittura non ci sono previsioni di crescita dell'inflazione, ovviamente negli schemi di analisi di valutazione dei prezzi previste e incorporato nel prezzo stesso. Basta solo evidentemente che si diciamo addensino delle nubi su un'inflazione leggermente previsione, in termini previsionali leggermente superiore a quella che si era prevista, che ovviamente i titoli obbligazionari devono immediatamente adeguarsi, per cui partendo ovviamente da rendimenti schiacciati molto bassi, basta che solo l'inflazione previsionale salga di qualche decimo di punto che ovviamente i mercati vengono ad essere molto volatili. Vorrei rassicurare però il quadro generale è di quello, è un quadro in cui almeno noi pensiamo che l'inflazione in Europa ma anche negli Stati Uniti rimanga a dei livelli molto bassi, storicamente rimarrà a livelli molto bassi rispetto al passato, quindi non c'è una preoccupazione di livelli di iperinflazione. Ripeto, è tutto relativo, partendo purtroppo da un livello molto basso, da un piano molto basso per arrivare, basta solo arrivare al secondo o terzo piano di un edificio che sembra quasi di vedere di essere su un grattacielo. Di un grattacielo. Davide ci stava scrivendo: il mercato Forex rientra tra quelli da prendere in considerazione nel paniere degli investimenti interessanti? Allora Davide, già lei, che ne so, per esempio diversificando i suoi investimenti indirettamente investe sul mercato Forex, che è il mercato appunto di riferimento per le valute, no? Alfieri, per cui che cosa vuol dire investire nel mercato Forex? Vuol dire tutto e niente? Sì, direi assolutamente, stiamo parlando di mercato Forex, si parla del mercato professionale delle valute e quindi generalmente generalmente è sconsigliato per un investitore finale andare a prendere scommesse dirette su una valuta contro un'altra. Lasciamolo fare ai professionisti, perché effettivamente stiamo entrando in un contesto di livelli di rischiosità molto molto alti. Senta, invece è in corso, siamo proprio nel pieno in questo periodo della la cosiddetta reporting season, la stagione delle trimestrali. Il mercato americano ci racconta ogni giorno come stanno andando i conti, appunto, delle principali, delle più importanti società quotate. Per esempio, nelle ultime ore stavo guardando che il comparto farmaceutico ha un po' deluso le attese di mercato, un quadro in chiaro scuro per il settore tecnologico. Ieri è andata molto bene la difesa di Boeing. Insomma, qua il quadro che emerge, secondo il vostro punto di osservazione, qual è? Come stanno le società americane, in particolar modo, anche se poi ne abbiamo anche delle nostre? Beh, le aziende americane continuano comunque ad essere estremamente solide e sane. Ecco, ritorniamo al discorso di prima. Veniamo da stagioni di grossa crescita, addirittura doppia cifra, cioè più del 10% degli utili. Ovviamente in questo momento noi vediamo una crescita, per esempio, proiettata sul 2007 degli utili, 2017, scusate, degli utili circa dell'8%. Chiaramente meno rispetto al passato, ma sicuramente più interessante rispetto alle previsione. Un dato significativo è che al momento, oggi come oggi, in base agli utili che sono stati pubblicati, il 70% delle aziende americane ha fatto meglio delle previsioni. Cosa vuol dire? Che negli ultimi mesi gli analisti fecero previsioni più pessimistiche sugli utili delle aziende americane. Che non si sono particolarmente preoccupate per la campagna elettorale, hanno continuato a fare il loro business. Hanno continuato a fare il loro business e stanno andando meglio del previsto. Quindi, in generale, è vero che le aziende americane hanno rallentato questa crescita, ma comunque hanno una crescita degli utili molto robusti. È significativo che comunque l'economia americana continua a crescere a tassi superiori al 2%. Letizia da Roma, prima dei saluti, cosa ne sa lei della giornata mondiale del risparmio? Buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io so che è legata al nome di un economista italiano, Matteo Pantaleone, che ne ispirò la proclamazione. Discorso tenuto a Milano nel 1924 durante un congresso dell'Istituto Internazionale del Risparmio. Allora Letizia, cosa le devo dire? Noi il libro glielo regaliamo lo stesso, se devo essere sincera fino in fondo questo aspetto io non lo conosco, adesso lo andiamo a verificare, ma quantomeno prendiamo l'impegno. Marco ha verificato. Ha già verificato. Io sapevo solamente, insomma, che era nell'ottobre del 1924 che si svolse a Milano presso la sede della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde il primo congresso internazionale del risparmio. Se andate sul sito dell'ACRI ci sono tutti i manifesti di tutte le giornate che si sono celebrate, sono meravigliosi. C'è anche quello della mamma che abbraccia il suo bambino per dirci come ci dobbiamo prendere cura dei nostri soldini. Grazie a Lorenzo Alfieri, alla prossima. Grazie a voi.